Allora, Mastella, quando si vota? Mi faccia una sua previsione, guardi, lei che conosce io bene. Io credo che se si vota, si vota il prossimo anno. Se non si vota vuol dire che Berlusconi è fottuto, cioè nel senso che passando il tempo, come ho detto, superando le colonne d'Ercole dell'autunno, con le impazienze della Lega a quel punto e perdendo la maggioranza al Senato, c'è un governo, diciamo, che potrà durare anche un paio d'anni con l'eliminazione di Berlusconi. Tanto il problema, insomma, per quanto riguarda gli avversari, è Berlusconi, quindi che ci possa essere una congiunzione su un governo che poi ognuno potrà titolare a vario modo, un governo diciamo degli italiani, un governo. Ma lei sarebbe favorevole? Lei sarebbe favorevole? No, secondo me no, cioè al punto in cui stanno le cose sarebbe opportuno magari prima di andare al voto cambiare e modificare la legge elettorale, però credo che il punto in cui stiamo per Berlusconi, per il paese no, però per Berlusconi credo che l'unica possibilità che lui ha di superare, diciamo, l'accerchiamento che gli stanno facendo è quello di andare al voto.